Ecco, ad alcuni giorni dall'inizio dei mondiali, purtroppo le notizie non sono delle migliori, mi pare. È cominciata un po' male, la campagna dei movimenti brasiliani contro la Coppa, no? È vero sì che, per esempio, nella partita di inaugurazione, quella cui ha giocato il Brasile, Dima è stata anche contestata addirittura dalle tribune, ma dati i costi proibitivi di quei biglietti, diciamo che quella non era certo la voce del popolo. Lì allo stadio c'è stato solo un episodio che è passato quasi inosservato, un bambino che faceva parte dei figuranti della manifestazione, quella ufficiale, no? Di apertura, un bambino indio uscendo ha srotolato piccolo, diciamo, striscione, non possiamo chiamarlo striscione perché stava nelle mani di questo bambino, in cui rivendicava la demarcazione delle terre indigene. Ma insomma, questo sì, più o meno ci si aspettava, ovviamente, che dentro gli stadi fosse tutto più o meno sotto controllo, anche se, ripeto, poi Dilma è stata contestata, ma è stata contestata da persone, forse è stata più una contestazione di destra che di sinistra dentro lo stadio. Concentrazione non è stata fatta vedere dalla TV, ma qui insomma in Brasile poi si è saputo, eccetera. E invece quello che si aspettava era che ci fossero dei movimenti che riuscissero, o almeno questo si sperava, a mettere davvero i bastoni tra le ruote all'evento organizzato insomma dalla FIFA. Ecco, direi che in linea di massima le aspettative sono state deluse, perché ci sono stati due episodi, soprattutto secondo me, che hanno marcato male la vigilia dei mondiali. Uno è stato la fine dello sciopero dei lavoratori del metro di San Paolo, e non è stata una fine bella, perché al di là del risultato dal punto di vista salariale, che hanno ottenuto il 9% di aumento contro il 12% che chiedevano, ma non è questa la sostanza della questione. La sostanza della questione è che lo sciopero è stato dichiarato illegale dal Tribunale del Lavoro, siccome, come ho già spiegato, in Brasile lo sciopero legittimo, considerato legittimo, è pagato, cioè i lavoratori ricevono il salario. Però non appena è successo che è stato dichiarato illegittimo, e inoltre, oltre a questo, il sindacato ha ricevuto una multa veramente consistente, e lo sciopero si è afflosciato, insomma è crollato. Un'assemblea in cui c'è stata un'assemblea in cui la stragrande maggioranza dei lavoratori ha deciso di riprendere il lavoro. Sicuramente qui c'è avuto un ruolo anche un po', insomma, la volontà della direzione sindacale di arrivare insomma anche a questo risultato, con la scusa di non dividere i lavoratori. Ma in realtà, ecco, la cosa più brutta è che una delle rivendicazioni fondamentali, che era il reintegro di 42, scusa, lavoratori che erano stati licenziati. Sono stati licenziati per aver partecipato ad azioni e picchetti, cioè questa rivendicazione non è stata ottenuta, cioè i lavoratori non sono stati reintegrati e purtroppo appunto il lavoro è ripreso. Poi il sindacato sta organizzando una cosiddetta campagna nazionale, internazionale per il reintegro, però di fatto è una cosa rimandata, insomma, sine die, intanto i lavoratori sono tornati al loro posto. Ma un altro episodio che aveva un po' dato un segnale poco positivo è stato che almeno una parte dei movimento dei lavoratori, movimento dos trabalhadores sem teto, cioè movimento dei lavoratori senza tetto, 2 giorni prima dell'inizio dei mondiali, aveva dichiarato di sospendere le agitazioni perché era arrivato ad un accordo col governo per la costruzione di alloggi, eccetera. Naturalmente sono promesse che poi vedremo se verranno effettivamente mantenute. Diciamo, a San Paolo, poi, il giorno dell'apertura dei mondiali, la manifestazione era era poco partecipata. Si parla di centinaia di persone, ci sono stati scontri pesanti con la polizia, ci sono stati 3 giornalisti feriti, tra cui una giornalista della CNN, il che significa chiaramente che la polizia non vuole vedere giornalisti nei paraggi, perché quando picchiano giornalisti così importanti, insomma, si sa, il messaggio è chiaro. Molto importante è che nei giorni che hanno immediatamente preceduto l'apertura dei mondiali ci sono state una serie di fermi, sequestri di materiale informatico, eccetera, di vari attivisti, sia a San Paolo, dove negli ultimi tempi una 70 di persone sono state fermate, identificate, portate in questura, interrogate e sostanzialmente avvertite insomma, di fare attenzione a quello che fanno. Apro parentesi, dal giugno dell'anno scorso ad oggi sono 700 circa i militanti dei movimenti che hanno subito questo tipo di intimidazioni, che sono indagati per atti di violenza, eccetera, eccetera, o che devono andare sotto processo e così via. E lo stesso è avvenuto a Rio de Janeiro, dove lì la polizia ha fermato 11 persone, in particolare quelli che sono stati colpiti sono una leader di Ninja è sigla che significa Narrativas Independentes, Giornalismo e Assault, che aveva avuto un ruolo molto importante nelle manifestazioni del giugno dell'anno scorso. Sono dei, diciamo, reporter indipendenti che girano con un carrello del supermercato con una telecamera sopra, e comunque si sono conquistati, insomma, un prestigio molto importante. Hanno ovviamente un sito, poi sono presenti su Facebook, hanno moltissimi followers. Bene, da leader di questa emittente, Elisa de Quadro Sanzi, detta Sinigno, è stata appunto portata in questura, le sono stati notificati degli avvisi di reato, insieme a lei anche un avvocato, Eloisa Sami del Movimento, un cameraman, insomma, e altri militanti di questo corpo. Questi sono stati chiari avvertimenti che sono partiti proprio immediatamente prima dei mondiali. D'altra parte c'era stato un intervento della presidentessa Dilma molto chiaro, che aveva detto, insomma, che non sarebbero stati tollerati attentati al diritto di vedere le partite, insomma, di assistere ai mondiali. Sono stati schierati, oltre alla polizia militare e statale, che già, insomma, si occupano di questo tipo di azioni, sono stati schierati 57.000 militari, insomma, no? Per proprio difendere, insomma, il territorio degli stadi da qualsiasi possibilità di disturbare. Quindi, insomma, queste sono state un po' le campane un po' lugubri che sono suonate ancora prima dell'inizio. E il giorno dell'inizio, sì, ci sono state le manifestazioni, però, come ho detto, a San Paolo si parla di centinaia di persone, anche se poi in contemporanea c'era lo sciopero del trasporto aereo, che era partito proprio quel giorno, un'occupazione anche di case in un quartiere di San Paolo, una 50 di persone hanno occupato un'area. Poi c'è stata una manifestazione a Porto Alegre, si dice 2.000 persone, forse qualcosa di più, forse qualcosa di meno, un migliaio a Belo Horizonte, che è la terza metropoli del Brasile dopo San Paolo, che è la più grande del Rio de Janeiro. Anche lì ci sono stati scontri, un attivista sempre di questa Ninja è stata, insieme ad altri, portata in questura, picchiata, minacciata, insomma, così via. A Rio de Janeiro, sì, anche lì si parla, insomma, di questi numeri, e così via. Manifestazioni, per carità, ce ne sono anche oggi, ma non danno l'impressione, insomma, di poter creare quell'atmosfera che qualcuno, che molti si auguravano, ecco. Anche il movimento Passi Libre sembra attraversare una fase difficile, basti pensare che in diverse capitali dello Stato, cioè diverse capitali di Stato, perché il Brasile è un paese federale, no? 9 mi pare, negli ultimi mesi ci sono stati degli aumenti dei prezzi dei biglietti, laddove giugno scorso gli aumenti erano stati ritirati. Quindi, ripeto, ci sono scioperi in corso, continuano i scioperi degli insegnanti e del personale amministrativo dell'istruzione, ci sono scioperi del trasporto che vanno e vengono. La situazione, diciamo, continua a essere contraddittoria e non è sicuramente unanimemente pacificata. Però ecco, si ha l'impressione che comunque non ci sia la forza di imporre la propria agenda, insomma, l'attenzione dei media sulle proprie rivendicazioni. L'attenzione dei media si sta focalizzando sempre di più sulle partite, insomma, no? E questo è quello che sta succedendo, o almeno questa è la mia impressione. È difficile per me dire perché. Bisognerebbe fare un lungo discorso che parte ancora da che cosa sono stati i movimenti del giugno dell'anno scorso, i quali hanno avuto una grandissima spontaneità, ma diciamo un livello organizzativo molto embrionale, diciamo forse anche un livello di coscienza embrionale, in questo senso. Molto brevemente, ma parto da quello che fu il movimento contro la dittatura, no? Il più grande movimento prima di quelli del giugno del 2013, no? Che dopo tanti anni, insomma, ha riportato il Brasile sulle strade. Allora, contro la dittatura c'era stata un'adesione veramente di massa e anche, diciamo, interclassista, nel senso che anche la borghesia a un certo punto, diciamo, aveva voglia di scolarsi di dosso la dittatura. Molti intellettuali, tra cui notissimi musicisti e scrittori brasiliani nel mondo, che erano anche in esilio, eccetera, davano il loro appoggio e così, no? Già il movimento del giugno scorso è qualcosa di diverso, perché la borghesia non si è fatta viva, ma ancora nel giugno la piccola borghesia c'era nel movimento, confondendo un po' le sue rivendicazioni un po' qualunquistiche contro la corruzione con quelle più marcatamente popolari e proletarie nascevano in quel momento, come appunto Pass Livre, miglioramento dei servizi, eccetera, eccetera. A giugno dell'anno scorso la partecipazione dei lavoratori in quanto movimento era stata, diciamo, cioè dei lavoratori in quanto movimento indipendente, con scioperi eccetera eccetera, era stata molto bassa. Scioperi ce n'erano, ma erano un po' fuori, diciamo, da questo. Quello che sta succedendo adesso è ancora un pochino diverso, nel senso che anche la piccola borghesia, mi dà l'impressione, non c'è in questo momento. Gli strati popolari e proletari e i lavoratori che stanno facendo sciopero sono rimasti un po' soli. Non credo che questo possa spiegare tutto, ovviamente, no? Però è una cosa che secondo me deve essere presa in considerazione, cioè nel senso che questo è un dato negativo dal punto di vista numerico, ma può essere anche una fase del movimento che prelude ad una più netta demarcazione, diciamo, degli interessi sociali in gioco, no? Ed ecco, e poi l'altra cosa, come ho detto, è che si fatica ancora a vedere, anche se tentativi ce ne sono, un collegamento fra gli scioperi, che ce ne sono tanti in questo momento, da una parte, e i movimenti sociali, diciamo, dall'altra, cioè i movimenti di tipo meno tradizionale, come per esempio quello del movimento dei lavoratori sentito, quelli delle favelas che sono anche molto importanti, eccetera. Non credo che per il momento questo possa spiegare tutto, bisognerà rifletterci sopra, ma sono le cose che in questo momento mi vengono, insomma. Senti, una cosa ti volevo chiedere, Alessandro, diciamo anche in Italia, eccetera, no? Si parla del boicottaggio nel guardare i mondiali in solidarietà alle lotte che stanno avvenendo in questi giorni. Secondo te questa cosa è importante? Se ne percepisce qualcosa anche lì oppure no? Cioè, tutti gli occhi sono puntati qua e qui, e bene o male, comunque l'atmosfera del mondiale non è la solita kermesse di sempre, ci sono molte discussioni, molti se, ma però insomma sta a bola sta rollando, diciamo, no? Ecco, quindi ecco, da qui insomma non lo so, sarebbe lì, forse voi potete giudicare meglio di me, insomma, che valore possono avere lì nel posto questo tipo di cosa, ma penso che tutte le cose che aiutano a dibattere sulla situazione del Brasile, e non solo del Brasile, ma anche di quello che la FIFA sta facendo, perché abbiamo sentito lì nel Qatar cosa è successo, e non si tratta solo di corruzione, ci sono centinaia di lavoratori morti, non so se hai visto le notizie di oggi sul giornale, centinaia di lavoratori morti proprio nelle costruzioni per i mondiali che ci saranno, mi sembra, non mi ricordo l'anno adesso, e lì insomma anche quello, cioè, quindi la contestazione di ciò che la FIFA è, che e la critica sono certamente importanti, però io, ecco, sono sempre del parere che poi è proprio e poi andare nella piazza a fare delle iniziative, quello che è importante, no? Questo.